Salta, un programma di e con Enzino, Sara, Marsi e Simone. One. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi, simpatici amici ascoltatori di Piazza Alta. Questa è Radio F ed è la 16ª puntata del programma che sta per prendere avvio. Radio F dal 1976. Piu, piu, piu, piu. Brano che ha avviato questa 16ª puntata di Piazza Alta è Tungsteno degli Scisma. Gli Scisma sono la band di Paolo Benvenu prima che lui iniziasse la sua carriera da solista, e il nostro Simone adora Benvenu e quindi ed il colpevole, appunto, cara Sara, della selezione musicale è proprio Simone. One. Ecco, appunto, così anche questa stoccata l'abbiamo data. Sera, vai. Giovedì sera a Foiano che cosa si fa? Ma niente di meglio che ascoltare Radio F e Piazza Alta. Ma Piazza Alta, Sara, che cos'è? È un programma che serve per trattare di Foiano diri per raccontare aneddoti, luoghi di questo paese, ma soprattutto i personaggi, perché voglio dire, abbiamo iniziato a far conoscere ai nostri ascoltatori davvero dei personaggi straordinari. Ricordiamo l'ultimo, Marzi, quello che c'è stato l'ultima volta. L'ormai assunto alle cronache nazionali ed internazionali Gramazio, che ha ricevuto grandi, grandi riconoscimenti anche sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook e su YouTube, dove potete chiaramente vedere anche dei brani, degli spezzoni della puntata registrata la scorsa settimana. Perché questa è una delle novità, il video che mettiamo su YouTube. Però Marzi, come possono ascoltarci i nostri fan? Non possono trovare scuse per non ascoltarci. Infatti sulla frequenza 101.2 in modulazione di frequenza potete ascoltare Radio F, oppure su internet il nostro sito ufficiale è radiof.it, oppure possono appunto scaricare delle app per dispositivi Apple ed Android. Siamo modernissimi. Non c'è scusa, ci trovate. Non è, dice, sono passata un orario strano, non l'ho trovato. Non regge, anche perché poi se si perdono la diretta di questa sera possono comunque riascoltarci domani nel podcast che viene caricato appunto sulla nostra pagina Facebook. Non prestissimo. Sì, metà mattinata, insomma. Simone, la mattina vuole un pochino un po'. Si concede un giusto riposo. Allora, e poi c'è anche un'altra cosa legata alla pagina Facebook, che sono le rubriche curate Piazzalta. Il titolo, una serata da leone, che vi dà qualche consiglio. Farei quasi il ruggito del leone, perdere. Per i foianesi leone è un nome che evoca tantissime cose, quindi dove potete trovare un buon film consigliato dalla nostra redazione, vero? Tutte le settimane aggiornato. Così come i consigli per il weekend, con gli appuntamenti musicali, anche qui i film, insomma, i consigli presto, della redazione di Piazza Alta. Quando avrò smesso di fare la dieta, proporrò anche una rubrica di culinaria. Ah, perfetto. Sì, ma adesso ti metti a dieta, ora ci sono le uova di Pasqua. Ho iniziato stasera. Proprio da stasera? Sì, ho già visto dei miglioramenti, però. Già dicevamo l'altra volta che eri dimagrito, quindi... Sì, ma perché mi ero tagliato i capelli. Di cosa parliamo stasera? Allora, andiamo con l'argomento, perché questa sera inauguriamo un nuovo contenitore, perché inizieremo a parlare delle associazioni culturali di Foiano, ovviamente, perché abbiamo detto che si tratta di Foiano, associazioni culturali e artistiche sia attive, quindi quelle del presente, che anche quelle passate, e cominceremo proprio da un'attività, da un'associazione che appunto è attiva non soltanto a Foiano, ma comunque anche nella provincia. E diciamo subito allora, Marzi, qual è questa associazione? Si tratta di Artificio, che è un'associazione dedita alla diffusione principalmente del teatro, ma anche di altre discipline come la danza, arti visive, musica, letteratura e molto altro ancora, che scopriremo tra poco. E tant'è vero che questa cosa è reale, tra poco avremo in studio alcuni rappresentanti di questa associazione, con i quali cercheremo di capire meglio la loro attività e... Ma scusa Sara, non ti sei accorta di un gradevolissimo silenzio, una pace che pervade il nostro studio questa sera? È come se mancasse qualcosa. È un'assenza, sì. Un'assenza... Si sente però un po' il peso di questa assenza, no? È più peso quando c'è. Che comunque... Pronto? Sento una voce! Carissimo! Non fate così, sono emozionato qua più di quando sono in diretta, non so come mai. Ma il nostro Enzino! Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano e buonasera anche a voi tre lì, che senza di me lo so che soffrite tantissimo. Ma ora, diciamo... Sì, c'è chi si strappa i capelli. Io l'ho già fatto, tempo fa però. Enzo, come dove state? Sei? Dove sei? Ma guarda, caro il mio Marzi, vorrei fare quello professionista che dice: "Vai, sai, sono fuori per un progetto che stiamo sviluppando, stiamo girando un film". Sai, noi stasera parliamo di arte, quindi puoi dire quel che vuoi, No, in realtà sono fuori per lavoro e... Ma dove? Perché Enzino dicevi progetto. Il lavoro è solo a Milano, può essere lavoro. No, adesso non posso, sono a Milano. Sono a Milano, ma mi stanno ascoltando anche alcuni amici miei che sono qua con me e che saluto. Anche noi li salutiamo. Bene, poi sono tanti, non mi chiedete i nomi, e purtroppo quindi sono costretto a malincuore a saltare la puntata, ma vi ascolto come lo stavano facendo tutti gli altri, e devo dire che è gradevole come puntata. Certo, manca, come dicevate voi, una voce importante, però vabbè, per una volta sopporteranno questa mancanza. Ma allora facciamo questo gioco, saranno i nostri radioascoltatori a vedere come va la puntata di stasera, anche perché sì, è una puntata tutta sperimentale. Faremo una specie di radiodramma anni 50-60. Non vedo l'ora di ascoltarvi proprio, e mi dispiace non essere lì, ma da una parte sono contento di avere il privilegio di essere un ascoltatore. Intanto io ti saluto con Dal 1976, che meraviglia. Grandioso, grande Enzino. Un bacione a tutti, ci risentiamo giovedì prossimo, io intanto vi ascolto. Rimani sintonizzato, Ci mancherebbe altro. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Questo secondo brano di questa puntata di Piazz'Alta è un omaggio che vogliamo fare al nostro Enzino, perché ci manca tanto. E allora, visto che si tratta di una band milanese dal titolo Fiumi, dal nome Fiumi, il nostro Simone ha scelto di passare questo brano, lo dedichiamo a Enzino, che salutiamo, e con lui salutiamo anche tutti i suoi amici con cui ci sta ascoltando, e qualcuno si dispera perché davvero, sì, Enzino ci manca. Vedo quelle cuffiette rosse lì, quelle di Enzino, da sole lì, ma sono commosso. Un saluto, Enzo, a te e a tutti i tuoi colleghi, a tutti quelli che ti stanno intorno, e sappi, ma lo sai, che vorrei essere con te. Sei ripreso. Momento di pathos, però. Enzino mancherà anche ai nostri ascoltatori che ci seguono e interagiscono con noi su Facebook, perché appunto è lui che posta sempre le foto, quindi che vi tiene aggiornati su Facebook, e stasera è lui insomma, che viene Enzino torna. Ecco, è lui che viene sempre a notte fonda e quasi sempre no, questa è una citazione di una canzone di Ruggeri. Se indovinate il titolo c'è un quiz, un premio certo. Va bene, è solo per cultori di una musica di un certo livello. Cara Sara, sì, devo dirti che da quando lavoriamo sul nostro programma su Piazza Alta mi sono reso conto come Foiano sia veramente un coacervo di cultura, un centro culturale che la Valdichiana merita chiaramente, ma che io non conoscevo. Dimostra al suo interno di avere una vitalità intellettuale e artistica che io mai mi sarei pensato di poter trovare nella preparazione delle nostre puntate. Ma Piazza Alta serve anche a questo, no? Perché noi poi le facciamo scoprire ai nostri ascoltatori questi talenti. Infatti, cari foianesi e cari... Però li scopriamo anche noi. Esatto, volevo dire, voi foianesi o voi che state a Foiano o che venite a Foiano, quando siete a Foiano, guardatevi bene intorno, perché le persone che pensate... che vi circondano, che pensate siano normali, non è detto che siano proprio così. Suona normali. Come una minaccia, però. No, è un stavamo invito. Parlando di talenti e questo mi incute timore, questa cosa. Devo guardarmi le spalle ogni volta che entro a Foiano, fammi capire. No, ma anche di fianco va bene, le spalle non è per sempre. Per farmi vedere chi c'ho no, dietro, ma il foianese, non ho nessuno. Il foianese ti affronta, non è... Quindi, sì? Sì, sì, poi ma vai, allora, vieni tranquilla. Però, insomma. Sappi, cara Sara, che sì, appunto ci sono tantissime associazioni. Infatti, torniamo quindi all'argomento di stasera, quello che andremo a presentare, perché Marzi, dicevamo delle associazioni, partiamo dal presente, da quelle associazioni che animano quindi questi anni. Il presente di Foiano sarebbe io associaziono, tu associazioni, egli associaziona, noi associazioniamo, questo è da Sciogli Lingua. Voi associazionismo, nah, di stampo di stampo teatrale, esatto. Teatrale per un attimo abbiamo e temuto e loro associazionano. Bene. Perfetto, siamo bravissimi. E dopo questa bella performance hai parlato del presente, se vogliamo fare il passato, il futuro, passato, eccetera. Vogliamo fare una figuraccia, no? Dai. Ecco, volevo... Senti, ma chi sono questi dell'associazione Artificio? Gli Artificio... Fammi capire. Non hanno niente a che vedere con la parte ossea della struttura culturale. Pensavo con quello che abbiamo detto prima sulle associazioni. Poi tra poco ce lo diranno loro stessi. Che, sì, ma tutti? Io ne conosco molti, alcuni, ci ho parlato diverse volte e sono... motivati, sono spinti dal desiderio, proprio dalla fiamma dell'arte proprio in senso tradizionale, arte di qualcuno che ha da trasmettere qualcosa al pubblico. Non so se questa accezione è chiarissimo, cioè, penso che da Aristotele in poi nessuno abbia mai perfetto, è chiarissimo. E quindi che cosa trasmettono di solito? Perché io prima dicevo, no, guardano al teatro, alla letteratura, alla musica, quindi sono degli artisti dalle mille sfaccettature. Esatto, hanno tutti una vita normale, naturale, naturale. Un po' come il tonno, no? Al naturale. E ci racconteranno loro stessi come è nata questa associazione, quali sono gli obiettivi e le loro finalità. Ma è vero che ce la faranno proprio toccare con mano questa loro arte? Sì, o meglio, attraverso radiofonico. Radiofonico, diciamo. Sì, perché se tutto va come dovrebbe, ci reciteranno infatti alcuni estratti del loro spettacolo che sabato prossimo, quindi questo, proprio dopodomani, metteranno in scena alla Galleria del Furia, proprio qui a Foiano. Quindi emozioni a non finire, cara Sara, caro Simone e cari ascoltatori a casa. E caro Enzino da Milano. Ci manchi. Are you demanding love when you keep away from me? Of being alone again. Are you demanding love when you keep away from me? When you see better being alone. bellies alright. When the night comes down and you close the door, your little lonesome boy is waiting for you. But you would go waking up early and walking alone from Clarissa Street to Roding Road. You miss the nights, you miss your boy, and your wet cheeks say that it's only love. I used the mirror made out of me. I used the mirror made out of me. Allora, questa sera ho difficoltà a trovare gli attacchi perché Simone ha scelto tutti i brani che arrivano a un certo punto e sembra che siano quasi guarda, finiti e poi brum, ci frega. Dovrebbe essere una presa proprio dietro la porta. Ora, se vuoi ora vedo, dopo nel prossimo vedo se lo becco. Comunque, questi erano i One Dimensional Man, che è la band nata nel 96 e che ha come vocalist, come frontman, per Paolo Capovilla, che è l'attuale cantante del Teatro degli Orrori. E il brano era Mad at Me. Scusate se è poco, ma qui, come avevamo anticipato negli interventi precedenti, abbiamo già tanti ospiti simpatici, amici. Inizio io a presentarne due. Da ospite due, posso? No, solo due adesso. Anche tre. Ma perché? Perché limitarci? Avevamo detto che è una puntata sperimentale, quindi vediamo se l'esperimento diciamo funziona. Suda. Allora, Marzi, suda. Abbiamo Gian Piero, Alessia e Alida ai nostri microfoni. Io esatto. Parto subito con una domanda, anzi con un benvenuto a tutte e tre, con una buonasera, benvenuti negli studi di Radio F. E voglio subito fare una domanda a Gian Piero, perché in poche battute ho capito che lui qui diciamo non è la prima volta che viene, ma è quasi quasi di casa. È vero che è così? Di casa, un ritorno. Un ritorno. Dopo quanto tempo? 30 anni. E che è successo 30 anni fa? Niente, appunto, è un'emozione per me ritornare qua dopo 30 anni che non ci rimettevo piede, perché quando ero giovane, cioè praticamente nel Giurassico, giù di lì, insieme a quattro sciagurati mettemmo su appunto questa Radio F, e non avrei mai pensato poi di rimetterci i piedi dopo tanto tempo. E tra l'altro di rimetterci i piedi per un'altra cosa abbastanza simile, cioè per presentare un'altra cosa che ho fatto da anziano questa volta, abbiamo fatto insieme a altri amici, cioè un'associazione culturale, artistica, in pratica siamo varie persone, ognuna con interessi diversi nell'ambito dell'arte, della cultura. Io mi interesso particolarmente di musica, arte di teatro, recitazione, regia. C'è una scrittrice, grandissima scrittrice, Nostrale. E niente, ci siamo trovati insieme e abbiamo deciso di mettere su un'associazione per aiutarsi l'un con l'altro a fare queste cose che ci piacciono. Quindi tante sono le forme artistiche in cui vi cimentate, sì, ognuno magari nel proprio settore. L'arte, ci sarà chi è più specializzato nel teatro, chi appunto nella scrittura. Sì, l'arte è estremamente varia, noi abbiamo la presunzione di percorrere tutti i possibili sentieri. Bene, Gian Piero è già bello uno. Determinato. Sai, essendo foiano al centro della Val di Chiana, come esci dal centro storico, di sentieri se ne trova tanti, no? Alessia. Bisogna vedere dove portano, però. Infatti, ma sai come dice il detto, no? Quale? Uno a caso, lo puoi dire. Vai dove ti porta il cuore. Ne avevo in mente un altro, ma te lo dico dopo. Va bene, in privato. Alessia, dici qualcosa tu dell'associazione e di quello che fate. Allora, in realtà noi lavoriamo, siamo partiti da un gruppo teatrale che diciamo è attivo dal 2010 a Foiano, e già dall'inizio abbiamo pensato di unire le varie arti all'interno appunto di uno spettacolo teatrale. Quindi abbiamo collaborato già da subito con l'incontro primo con Alida Viti di Pozzo, proprio partendo da un romanzo che lei aveva scritto, Aracne. Abbiamo pensato di fare una traduzione teatrale, ma non ci bastava tutto ciò. Chiaro, ti vuoi fermare a... esatto, abbiamo coinvolto le ballerine dell'Art Studio, che collaborano con noi appunto da 4 anni, e quindi abbiamo iniziato proprio a fare sì degli spettacoli teatrali, all'interno però dei quali vivessero tutte le forme d'arte possibile e immaginabile, quindi poi di conseguenza anche la musica. Abbiamo fatto diversi spettacoli, siamo partiti da Aracne a Foiano, poi abbiamo fatto delle repliche, poi nel 2011 abbiamo fatto 8 donne, poi vabbè, abbiamo fatto un festival teatrale, l'otto associato alle tante donne, va bene per ogni tipo di pubblico, insomma. Beh, certo, anche perché in special modo eravamo tipo 5 donne e 3 uomini, 8 donne, i 3 uomini, quindi i 3 uomini erano donne, la suora con i baffi e con la barba. Ecco, a teatro succede, mi sentirei abbastanza propenso è a questa divertente cosa. Se volete aggiungere una nona donna, l'avete magari anche trovata prima, sì, si prima magari per una abbiamo una Simone replica. Che è disponibile. Ah, perfetto, dico Simone. Bene, Simone? Certo. Alida, dica. La scrittrice. Sei stata chiamata in causa come la, diciamo, la scrittrice da cui è stato tratto un primo la prima idea, opera. Questo romanzo, sì. Aracne, che romanzo è? È un tendenzialmente un fantasy, diciamo così. Accomuna un po' tutti i generi, però tendenzialmente un fantasy, e sia una storia, la storia di una famiglia che praticamente viene catapultata in un'altra realtà e messa a confronto con un mistero, una magia che c'è in quel luogo in Africa, che riporterà all'antico splendore una dea mistica che sarebbe appunto Aracne, e sicché da qui veniva il fatto di dividere in due il libro, la parte più terrena, che è quella del dottore che salva le vite, la missione, la famiglia e tutto, e la parte di Aracne, che è la parte magica, la parte quella trascendentale, che comunque sia influisce su tutto il resto e ne fa da capo, da filo conduttore. È il tuo primo romanzo? Sì. Come è nata l'idea? O quanto magari ti è rimasto lì? È stato immediato? L'hai tenuto per un po' nel cassetto? Perché sai, l'opera prima è sempre qualcosa di molto particolare. Ci ho rilavorato tanto. L'ho riscritto tipo 6 volte, credo, una cosa del genere. E nasce dal fatto che io sono aracnofobica in una maniera impressionante. Paura dei ragni. Quindi è personale, allora c'è un bel po' di te. Sì, c'è un bel po' di me in tutti i personaggi, e c'è tanto di me nello sfogo di questa aracne, comunque sia, in questa paura che l'ho misticizzata come se fosse questa dea inimmaginabile, però è tendenzialmente tanto me, sì. Comincio a sentire il peso dell'arte e penso che la mia schiena si incurverà per questa cosa. Non so se riuscirò a sostenerla. L'arte fa rimanere giovani. Ecco, dovevo iniziare prima allora. Ecco, intanto anche la musica ha un buon effetto. How is the sun could rise on each of my bones, red and gold of the sky, lining up the shore. Air so thin, water so cold, you touch my shoulder, I feel so bold. Oh, the matter is shaking and melting, cannot stop seeking, afraid of finding, overthrow the walls that divide me, warm and soft the breath of the trees. Questo brano, The Flux, è degli Urali, che è un progetto one man band di Ivan Tonelli. Stiamo un po' perdendo nei meandri di non so che. È una puntata sperimentale, Marzi. Sperimenta, però. No. Allora, Marzi è presissimo, vi dico quello che succede in fuori onda. Allora, Marzi sta prendendo appunti, si sta segnando le cose. Poi adesso attualmente è circondato da 5-6 donne, perché una ce l'ha alle spalle. Mai vista, eh. E quindi ora sì, inizierà a sudare, cioè, e forse non avevi realizzato. Ora mi ricordo, prima che iniziassi la mia terapia con il mio terapista, l'analista, dall'analista, con 5 donne erano tutte vestite di bianco, che mi tenevano. Erano 6. Le tue quelle del, che cosa stiamo dicendo? Non lo so. Torniamo a noi. Comunque sei circondato da 6 donne, me compresa. bellissima questa cosa, sì, non vorrei che non finisse mai. Pensa quanto ti invidia Enzino da Milano, che poteva essere qui anche lui circondato da 6 donne e invece non c'è. Questo è un altro modo per risalutare Enzino e dirgli che cosa si sta perdendo. Succede. Ciao invidiosi. Allora, bene, torniamo a noi. Un punto che forse è importante per questa cosa. Alida ci ha raccontato un po' a grandi linee quello che era il romanzo Aracne. E da come siamo arrivati, però, che evoluzione un po' c'è stata dal romanzo a quello che siete poi oggi? Allora, innanzitutto, ovviamente, parte da una passione di tutti per l'arte. Inizialmente, poi per la recitazione. In realtà io ho incontrato Alida a casa di un'amica, ci siamo fatti una bella partita a carte con una bella boccia di limoncello. Lei mi ha detto che aveva scritto questo libro, io ho detto "Bon, fammelo leggere". L'ho letto e ho pensato che sarebbe stato adattissimo a diventare un bello spettacolo teatrale. Da lì ci siamo messi a lavorare insieme, abbiamo fatto una riduzione teatrale e di conseguenza da lì è nato tutto. Pensa te, cioè, alle volte le idee più geniali, più interessanti da che possono nascere da una sbronza grandiosa, fantastico, perché Alessia, ecco, l'aveva mascherata sotto la partita a carte, la bottiglia di limoncello. Diciamoci la verità, alla fine ho questo dubbio adesso. Continuate con il limoncello, siete passati a qualcosa di più pesante? Il limoncello è fondamentale, okay. In particolar modo prima di entrare in scena, una bella boccia di limoncello dà quella carica, quel non so. Guarda, che ti dirò, e che non svegliamo altro, basta, perché già di tutti del mestiere cose. Basta, se no lasciamolo a voi. Però ecco, arriviamo al presente. Cara, Marzi, che cosa ci proponete questa sera? Innanzitutto dobbiamo dire che proponiamo dei brevi estratti dal nostro ultimo spettacolo, che, se lo posso dire, andrà in scena sabato 22 marzo. Ma noi lo abbiamo già detto, ma io lo ridico, nella sala Furio del esatto. Furia. Esatto. E niente, è uno spettacolo brillante, tutto ruota attorno alla morte di questo individuo. Bellissimo, quindi proprio è brillantissimo. Ci ammazzerete dalle risate, allora. Fatto sta che questo defunto non si trova più. E quindi la sparito il cadavere. È sparito. Questo il cadavere. È un po' un problema, è vero. La famiglia deve cercare di tenere celata la notizia della morte, allo stesso tempo però iniziano a intervenire, ritrovare il corpo, e però iniziano ad affollarsi persone in casa che disturbano appunto la quiete di questa famiglia. Non svegliamo niente. Il finale. No, il finale no, però sapere, magari da dove viene, sì, cioè come nasce questo, non neanche quello. Beh, è un testo di Achille Campanile del passato, degli anni 50, forse mi sembra del prima, passato, Marzi, prima del 1976. Però devo dire è un testo attualissimo, nel senso che potrebbe essere stato scritto anche oggi. Allora, chi sono le protagoniste di questo piccolo intervento? Allora, innanzitutto, se posso dire, mi sembra anche giusto, ci sarà un prologo che sarà recitato dalle ragazze che hanno fatto il laboratorio di teatro a Foiano, quindi sono tutte ragazzine che hanno dagli 8 ai 15 anni e faranno, diciamo, un prologo allo spettacolo. Dopodiché, questo alle 9. Questo è il prologo. Sabato. Noi il prologo, no, anche perché siamo ormai in fascia serale, insomma, non è puoi portare qui bambine di 8 anni, Infatti. Marzi. Cioè, sono a letto, capito, a quest'ora. Chi sarà in scena? Anzi, diciamo, la regia è della sottoscritta Alessia Zappalorti, l'aiuto regia Alida Viti, che è anche tecnico audio-video. Alle tastiere ci sarà Nicola Valdarnotti, proprio perché anche in questo caso avremo la musica dal vivo. Esatto. Poi reciterà Giampiero Chiavini, Elisa Alessi, Raisa Castiglionesi, Domenico Sanfilippo, Martina Quartini, Alessia Zappalorti, Gaetano Barra e Valentina Cetica. Tiè. E qui ci starebbe l'applauso. Figurato? No. No, però tu puoi fare qualcosa che potrebbe sostituire l'applauso. Non lo posso fare. No. Ah, sì, sì. Lo puoi fare. Bellissimo. mai avuto un applauso così. È una dedica proprio particolare di Piazzalta e di Marzi. Bene, avete bisogno di un po' di ambiente, di concentrazione per la vostra performance o possiamo andare? No, era un modo per dire che noi ora facciamo silenzio e lasciamo la parola a voi. Vai. A voi. Capita un fatto stranissimo, un fatto incredibile. Oh, cioè? Oh, non si trova più il povero Piero. Ma va. Me lo ha detto Angelica, che lo aveva portato dal bagno nella stanza da letto e adesso non c'è più. Ma che dici mai? E bisogna pensare che se lo sia portato via l'operaio, il quale pure adesso non c'è più. E per farne che? E che ne so io, se ne sentono tante. Ho mandato Angelica a cercare l'operaio. Ma non è possibile che sia stato lui. E d'altronde non può essere mica volato in cielo. Questo no, ma ricordo che c'è un caso simile. Il cadavere scomparso. Oh, non rammenti dove era scomparso, cara. Era stato disciolto dall'assassino in un liquido corrosivo. Oh, non può essere il caso nostro. Niente, l'operaio non c'è più fuori dalla finestra e il signor Piero non si trova. Hai guardato sotto i mobili? Naturalmente, è stata la prima cosa. Non c'è niente. Del resto, chi doveva nasconderlo e perché? E allora non c'è che una spiegazione possibile. Cioè? Questa ragazza non dice la verità. Giuro! È inutile giurare, il colpevole non può giurare. Comunque il giuramento non può considerarsi una prova. Ma io non sono colpevole. Allora siamo in presenza di un caso di mitomania. Ce n'è uno simile nel delitto immaginario. Ella crede di aver portato il povero Piero in camera da letto e invece l'ha lasciato nel bagno. Oh, misericordia, c'è De Magistri nel bagno. Se si è trovato alle prese col cadavere, gli sarà pigliato un accidente. Shake down 1979. Smashing Pumpkins e il loro brano 1979. Non potevo non fartelo dire, Marzi, questo era tuo. È bellissima questa cosa. Ci aggiungo anche a un... Sei contento? Ti è piaciuto questo brano, Marzi? Diciamo che cominciamo a ragionare. Io, sai benissimo che dopo Giacomo Rondinella per me non esiste nessuno, quindi ho delle difficoltà. Simone è andato oltre, però. Vabbè, però sono consapevole che mi devo un attimino aggiornare. Ma c'è una cosa che mi sta creando ansia, Sara, guarda. Le sei donne che ti circondano. No. Ora va bene, si fa per scherzare. Tuo analista che non abbiamo ancora salutato. No. È un'altra cosa. La mancanza di Piero. Non stiamo trovando Piero. Voglio lanciare un annuncio con i nostri radioascoltatori. Stiamo cercando questo Piero che pare sia deceduto, defunto, è sparito il corpo e pare che solo sabato sera alla galleria Furio del Furia di Foiano della Chiana verrà svelato il reale destino di Piero. Sì, sei già dentro, Marzia, mi sembra di essere storia. Piero, guarda. Sei Piero, fantastico. Ma detto questo, allora, noi abbiamo avuto un assaggio veramente straordinario. Guarda, io di sono questo... a dieta, ma questo assaggio che ho avuto, diciamo che mi ha abbastanza appagato. Si sta aprendo il maglioncino, questo lo... Eccoci, no. E allora io direi di ascoltarci un'altra parte di questo spettacolo che andrà in scena appunto tra due giorni alla Galleria Furio del Furia. Alessia, sì? Ci vuoi introdurre sul prossimo... Siamo sempre alla ricerca del povero Piero. Guarda, vado un po' fuori perché mi devo riprendere. Per caso tu lo trovassi fuori, magari ce lo potresti dire? No, ho notato una valigia strana fuori dalla porta. Il cadavere è scomparso. La morte nel baule. Ah, l'arte. Allora, il prossimo intervento, come si chiama questo che facciamo, che forse non ha nemmeno un nome? Vorrebbe un titolo, un trailer teatrale. Un'anticipazione. Chi vedrà come dai. Protagonista? Sempre Piero. No, dico sì, questo l'ho capito. Sto Piero. No, vuole sapere un poco chi Piero è che reciterà adesso. Detto in termini concreti. E potrei capire perché. Marzi, è scomparso. Gli attori si chiamano attori. Bastava chiedere chi sono i prossimi attori che entreranno sulla scena immaginaria delle frequenze di Radio F. Domenico Sanfilippo. Bene. L'operaio. Raisa Castiglionesi. La vecchia zotica. Elisa Lessi, la cameriera. Alessia Zappalorti, la selvaggia zotica. Martina Quartini, la vedova. Che però, scusa, ora... E Piero, che non c'è. Dico, andate a vedere anche i video su YouTube, perché vecchia zotica, non mi sembrano tanto. Quindi c'è anche questa... Questo era per dirvi che finirete su YouTube. Però Marzi doveva rimanere tra di noi, perché adesso si è rotta, come dire, una magia. Li facciamo rientrare nella parte. Ci vuole una liberatoria. Non avranno problemi ad apparire, voglio dire, no? No, infatti. Gente di teatro, gente d'arte, prego. L'importante è che appaia il povero Piero. Prima o poi, se no c'ho un vicino di casa che si chiama Piero, al limite una surroga. Povera creatura. Scusi, dove sono andati il signore e la signorina che erano qui fino a poco tempo fa? Mi scusassi, ma mi stavo riposando, mi era appellosato un attimo io. Scusate, Sì, cosa avete detto che non l'ho sentito? Dove sono andati il signore e la signorina che erano dove? Qui? Scusasse, se non ci sono qua se ne saranno uscite, cara signora. È giusto. E lei cosa vuole? Cosa? Già, io che cosa voglio? È mica facile rispondere a questa domanda, cara signora. Io lo so solo che se fosse stato per mia, io oggi qua in questa casa non sarei manco venuto. Perché, scusi, io non capisco. Allora mettiamo i puntini su lei, Anzitutto mi preme dire subito una cosa. Io non c'entro. Io non c'ho nessuna colpa, è giusto? Sono stato incaricato di un'ambasciata. E come si dice là, c'è quel detto famoso: ambasciatore non porta la penna. Penna! E io che cosa ho detto? Penna. Sì, ma non l'abbiamo capito, insomma, si spieghi. Ma che cosa mi volete far capire voi, signore Bede? Che loro non sanno niente di quello che è accaduto in questa casa? Ma di che cosa? Allora, condolezziamo. Sì. La colpa non è di nessuno, è stata una disgrazia. Signora, non ha avuto manco tempo di dire ai, niente, sul colpo. Ah, ho capito, deve essere matto. Oh, guarda, c'è un caso simile nell'evaso dal manicomio. Oh, su, finiscila. Signora, signora, l'ho trovato. Oh, dov'era? Nell'armadio. Ma non può esserci andato da solo, tanto più che l'armadio era chiuso a chiave dall'interno. Tale quale la morte nel baule. Identica situazione. Ma chi può avercelo messo? Nella morte nel baule a mettercelo è stato l'assassino. Ma qui non saprei. Signora, signora, ma scusate se la disturbo, se la interrompo. Ma ve lo posso chiarire io il dubbio. Comunque, premettiamo che è stata una disgrazia, sì, giusto? Sì, va bene, sì. A metterlo dentro l'armadio, cara signora, è stato l'operaio che l'aveva tenuto questa mattina per reparare il filo. L'operaio? L'operaio? Ma come si è permesso? Vi sembrano cose da farsi? Povero Piero! Signora, è scammassi, oh, e chi è? Lei ma potrà avere tutte le ragioni del mondo, io non dico di no. Però le ribadisco, io non c'entro niente, io non c'ho colpa. È stato il mio collega, che naturalmente è poveraccio e non è che l'ha fatto apposta. Ah, sì? E ce l'ha messo per disgrazia? Certo, certo, cara signora, sicuro. È stata una disgrazia, una fatalità è stata, signora. Mi lasci spiegare. Allora, il signore che è morto... Shhh, parli piano perché non si deve sapere. Ah, non si deve sapere? Volesse il cielo che non si sapesse, cara signoruzza Beda. Ma credo che sia molto difficile tenere nascosta la cosa. Ma noi cercheremo di non fare trapelare niente, su. E perché? Perché così voleva. Ma qui? Il morto. Un morto? Sì. Ma perché? Parra? Ma chi? È morto. Ah, ma lei è matto. Come? Io sono matto? Lei ha detto, il morto ha detto di non dirlo. Oh, ma l'aveva detto prima di morire. Ah, e quindi ha parlato. Ma allora, no, l'aveva lasciato scritto. Scritto? E dove l'ha scritto? Dentro l'armadio? Ma no, nell'armadio era già morto. E questo, cara signora, lo sappiamo tutti. Ma io vorrei sapere, quando ha detto il morto di non fare sapere nulla a nessuno? Oh, benedetto uomo, l'aveva lasciato scritto prima di morire, eh? Prima di morire? Sì. Allora c'è qualcosa che non capisco, ma da scusare, ma allora quando il mio collega, l'operaio, ha preso il cataforo e lo ha chiuso dentro l'armadio, non era del tutto morto, era mezzo morto e mezzo vivo. Perché? E signorossa Beda, si è potuto scrivere? Oh, e dai. E dai, dai, cara signora, ma a mio paese quando uno è morto, è morto. Parli piano, per cortesia, le abbiamo già detto che la cosa non si deve sapere. Così voleva il defunto. Ah, e allora raccontatemela per bene la cosa, cara signora. Se c'è questo signore, come si chiama, defunto, che non vuole che si sappia, allora vado a dirgli che per favore che non lo faccia sapere in giro. Ma chi dovrebbe dirlo? Su, scusi. Chi è morto, no? Ma qui lei è pazzo, però. Ah, io, signor pazzo? Ma scusassi, lei, uè, a vedova? Sì. Allora, contenta lei, guardi. Comunque, se si potesse non farlo sapere, sarebbe anche meglio. Comunque, se questa era la volontà, guardassi, io sarò il primo ad onorarla. Thank you. you live with uncertainty. If you're lonely, press play. Die, lady, die. The aspects that you pass on while traveling. When you're lonely, press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. When I'm lonely, I press play. Can I get any closer? What antidote can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve. Right here, when I'm lonely, I press play. Arrhythmia, accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me. La voce dei Blair, ovvero Damon Albarn, che abbiamo ascoltato in questo brano Lonely Press Play. E pensa Marzi, siamo già avanti, perché il brano è tratto dal quarto disco da solista di appunto Damon Albarn, che uscirà il 28 aprile 2014. Quindi io siamo, guarda, avanti. Stasera me la voglio segnare sul calendario, perché tra l'arte, tra il teatro, tra queste queste chicche musicali che Simone ha sfrugogliato non so dove, ci ha proposto, siamo proprio è nel futuro, e l'ha preso dal futuro, ecco. Sì, però ecco, se ogni tanto si guardasse anche un po' indietro, insomma, no, e questo, torniamo al presente o all'immediato futuro, perché ricordiamo che dopodomani, ovvero sabato 22 marzo, alla Galleria Furio del Furia ci sarà uno spettacolo dell'associazione Artificio. Sì, il titolo aspetta, perché lo devo dire per bene: Piero Ottimamente, stop. Restate dove siete, stop. È un po' come questo dire, è il titolo. Uscito fuoro. E mette ansia, vero? Ma chi è Piero, Marzi? Guarda, ormai fa parte un po' della mia famiglia. È il defunto, che non troviamo. Che detto così, poi però, lo troviamo. Scusa. No, lo troviamo, e però c'è. Loro lo trovano. Sì, ma io mi immedesimo, perché anche sabato sarò presente e parteciperò anche alla scoperta del. Alla ricerca del cadavere. Sì, esatto. Allora, il tempo chiaramente è tiranno. Big Bang ha detto stop. E un'altra banalità del caso la vuoi dire tu? Io farei parlare gli attori. Allora diamo veramente un'ultima chicca del Giampiero sull'ultimo, sì, sull'ultima scena che ci fate sentire adesso. No, perché sembra strano, perché in casa c'è un defunto, sono tutti a piangere per questo povero defunto, ma a me sinceramente la persona che mi fa tanta più pena in questa casa non è il defunto, è la povera Angelica, che veramente è subisce tutte le angherie. Chi è la cameriera, se non chi sbaglio. È la cameriera, facci sentire. Angelica, Angelica, sempre ad urlare, e fai di qui e fai di là e vai dal portiere, che per inciso non sanno nemmeno che faccia abbia. Potevo portare al loro cospetto anche un cane con il papillon, sarebbe stato uguale. Mi hanno fatto fare più chilometri in pochi giorni in questa casa che al mio paese con le fascine. Mi tocca portare quel povero morto da una stanza all'altra come se fosse un pacco postale. E poi, se mi commuovo, sono una rompiscatole io! Dico, ma vi rendete conto? Che poi io piango più che altro, perché ora che non c'è più quel povero uomo, mi tocca sorbirmele a me queste pazze. Tanto che comincio a temere per la mia sanità mentale. Anzi, fammi andare, va, che quelle se ricominciano ad urlare, oltre che alla sanità mentale, perderò anche l'udito. E com'è faticoso lavorare qui! Applauso a questo punto. Ma ti dirò che io, a casa mia succede la stessa cosa. Potrei fare la cameriera anch'io. Tutte ad urlare. Marzi, ti sei immedesimato forse un po' troppo. Guarda, ora perché ormai sono impegnato, ma una particina su questo spettacolo la potrei anche me la potrei anche ritagliare. Stai chiedendo una parte. In ogni caso, chiedendo una parte. La parte del portiere in vendita. La parte, la del, parte portiere. Del portiere in vendita. Ma quella di Piero che non apre bocca è già Piero occupata. È un cioè, capito, lui vuole fare metafisica. Ma lui vuole incombe. Fare la star, capito? Lui vuole fare la presenza, ma poi l'impegno poco. Bene. Ma è Piero il personaggio principale, quindi è la star. Sì. Allora, per allora. Scoprire come va a finire sabato sera alla Sala Furo di Furia a Foiano della Chiana. L'associazione Artificio. Culturale Artificio metterà in scena questo spettacolo di cui vi abbiamo dato alcuni assaggi. Piero ottimamente stop. Restate dove siete, stop. E per tutto il resto un saluto da Marsi, da Sara. Eccolo, ce l'abbiamo. Enzino, ci senti? Io vi sento. Oh, anche noi adesso. Comoda la vita. Perfetto. Comoda la vita. Ritorni per sabato? Ce la fai? Per sabato torno, sì, ce la faccio. Ti abbiamo lasciato una particina solo per te. Piero. Anche se non te lo meriti, vuoi salutare? E voglio salutare tutti, voglio fare i complimenti, siete stati bravissimi, una trasmissione interessantissima, quasi come quando ci sono io. Quasi. No, è quel quasi che fa la differenza, vero? Sto scherzando. Un saluto anche a tutti i tuoi colleghi che ti circondano, colleghi ma e colleghe, tanti, presumo. E colleghe, te lo so che sei sensibile, Marci. È stato bellissimo ascoltarvi, ma non vedo l'ora di tornare per poter essere insieme a voi giovedì prossimo. E noi ti aspettiamo, Enzino. Un bacio a tutti, statemi bene e ci sentiamo giovedì prossimo. Un saluto ciao. Anche da Simone. Simone, ciao, e ecco, ci risentiamo giovedì prossimo giovedì su prossimo. Radio F. E domani su Facebook, il podcast della puntata di oggi. Dal 1976. Avete ascoltato Piazz'Alta, un programma di e con Sara, Enzino, Marsi e Simone, il Larrotino!